Thank you. Buonasera, siete collegati con una nuova trasmissione di Andala, Notizie dal Mondo e Storie di Internazionalismo Proletario. Oggi è martedì 23 novembre, sono quasi le 8 meno 20 e come di consueto siamo in collegamento telefonico con Davide. Ci senti, Davide? Sì, buonasera a tutte e tutti. Perfetto. Bene, dopo aver perfezionato questo collegamento, io direi di fare brevemente un sommario di questa nuova puntata in cui, come al solito, come di consueto, faremo una rassegna di notizie con qualche nostro commento a margine. Ebbene, proprio ieri a Gerusalemme è stata una notte di scontri tra palestinesi e polizia, ovviamente israeliana, nel campo profughi di Shuafat, proprio nello stesso campo che appunto è completamente dimenticato, come ci ricorda Michele Giorgio, alle porte di Gerusalemme. E tra le altre cose, appunto, vi leggeremo pure questo comunicato dei giovani palestinesi in Italia dal titolo L'attacco a Gerusalemme e il giornalismo da salotto italiano. Poi per la nostra nuova rubrica che si intitola Cronache di Apartheid, insomma, vi daremo un po' di notizie proprio per fare il punto su quella che è la discriminazione, l'apartheid che purtroppo si respira in terra di Palestina. E proprio in merito di appunto apartheid, la FIFA ha sanzionato l'associazione di calcio della Scozia per via del tifo di alcuni tifosi proprio contro l'entità sionista. E sempre appunto nel Regno Unito è stata messa al bando Hamas e vi spiegheremo quelle che sono le ragioni e le implicazioni aiutandoci anche con l'articolo che leggiamo da Invicta Palestina. E poi in chiusura per tornare come dire in Italia vi parleremo della Sicilia, dove purtroppo non c'è soltanto la base di Sigonella, ma l'intera regione è militarizzata. E proprio in merito a questo, insomma, ieri è uscito un interessante articolo a firma di Antonio Mazzeo che potete leggere anche sulla pagina di Pagine Esteri. Beh, Davide, io direi di cominciare proprio con il resoconto di quello che è successo la notte scorsa tra la polizia e i palestinesi alle porte di Gerusalemme. Sì, Michele, ovviamente il precedente a quanto avvenuto deriva dal fatto che c'è stato l'uccisione di un israeliano nella città vecchia il giorno prima e ne sono stati feriti altri 3 poliziotti per mano di un palestinese che poi è stato ucciso sul colpo. E la notte poi sono incominciati questi scontri tra giovani palestinesi e poliziotti proprio a Gerusalemme Est. E a Shufra, il campo profughi, è proprio alle porte di Gerusalemme, adiacente al muro, che poi è il campo dove viveva l'uomo che la mattina aveva ucciso un israeliano e ferito altri 3, come vi dicevo poc'anzi. I reparti antisommossa hanno caricato i palestinesi che manifestavano con lanci di pietre contro gli arresti operati da Israele, mentre decine di israeliani di estrema destra nel frattempo hanno tentato di organizzare un raduno sul luogo della sparatoria ad arrivare allo scontro con i palestinesi. La tensione a Gerusalemme Est è rimasta alta e è tuttora a causa della minaccia di espulsione delle famiglie dei palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah come risposta. Proprio oggi, infatti, Michele Giorgio ci parla del campo profughi di Shufra, un campo profughi che ha avuto purtroppo l'opportunità di visitare 6 anni fa, partecipando a una delegazione proprio per non dimenticare il diritto al ritorno, e dove si trova proprio adiacente al muro che conduce a Gerusalemme, e quello che ricordo del campo profughi era soprattutto la puzza di percolato, di immondizia. Ora, bene, per ciò che riguarda l'articolo di Michele Giorgio, sottolinea appunto come il fatto che questo quartiere è nato all'esterno di Gerusalemme ed è stato circondato dal muro di separazione, da un posto di blocco che assomiglia infatti molto a un transito di frontiera. Quella è stata l'impressione anche che ho avuto passando da Sciufra e poi entrando a Gerusalemme. Infatti le stradine strette affollate di Sciufra ieri alle prime luci del giorno assomigliavano a un campo di battaglia. Michele ci racconta dei cassonetti dei rifiuti rovesciati, anneriti dal fuoco, pietre e sbarre di metallo ammassate per alzare barricate, nell'aria ancora l'odore pungente del fumo sprigionato dai copertoni dati alle fiamme. Sono state dunque ore di battaglia tra poliziotti israeliani intenuti a disinvolte centinaia di giovani palestinesi e questo, ricordiamolo, è anche l'unico campo profughi dentro i confini di Gerusalemme. Qualche anno fa le autorità israeliane in qualche modo hanno posto l'indesiderato Shufra all'esterno della città, costruendogli il muro di separazione, il posto di blocco, ma questo al fine appunto di, nonostante sia dentro Gerusalemme, gli israeliani vogliono tenerla fuori per ridurre i servizi a disposizione dei suoi abitanti. Infatti non possono, le persone che vivono a Shufra non possono permettersi ovviamente gli affitti di Gerusalemme, che sono elevati anche nella periferia povera araba della città, e quindi in questo quartiere viveva appunto Fadi Abu Sheikh Aidam, spero di averlo pronunciato bene, il 42enne che domenica mattina nella città vecchia di Gerusalemme con una mitraglietta ha aperto il fuoco contro quattro israeliani, uccidendone uno. Eli Kay, che è la guida al muro del pianto, e ferendone poi altri. Se tra le motivazioni dietro l'azione omicidia del palestinese ci sia anche il vissuto di profugo, figlio di profughi destinato a terminare la sua vita tra i rifiuti maleodoranti di Shufra, di cui vi parlavo prima, questo non sembra interessare a nessuno. Da Gaza il movimento islamico Hamas ha prontamente esaltato il suo gesto come un martirio e lo ha descritto come un suo leader locale, riservandogli onori e gloria. I suoi attivisti hanno anche sfilato nelle strade del campo. Da parte sua Israele non ha voluto intessere a descriverlo come un rifugio ad andare oltre il ruolo in Hamas. Proprio ieri, poi, dopo l'attacco armato nella città vecchia, i servizi di sicurezza israeliani hanno annunciato di aver sventato in questi mesi una lunga serie di attentati, fra cui azioni suicide che dovevano avvenire nella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme e in territorio israeliano. Ovviamente è tutto un pompare queste situazioni, data anche il clima politico in Israele attuale. Lo Shin Bet aveva aggiunto anche di aver arrestato una cinquantina di membri di Hamas che avrebbero ricevuto istruzioni e finanziamenti da Salah Hariri, il numero due dell'organizzazione all'estero. Sempre secondo lo Shin Bet, ci riporta Michele Giorgio, Hariri ed un altro dirigente di Hamas, Musa Dudim, avrebbero finanziato le cellule del movimento islamico in Cisgiordania. Infine, nascondigli disseminati un po' in questi nascondigli l'esercito avrebbe recuperato armi, munizioni ed esplosivi. Cosa c'entra in tutto questo Suad Abu Sheikh Adam? Nessuno lo sa, in quanto la donna, la moglie dell'attentatore, assieme alla figlia, è stata arrestata al valico di Allenby al suo rientro dalla Giordania ed è sotto interrogatorio da parte dello Shin Bet. I palestinesi sostengono che dopo un attacco, esercito e polizia arrestano subito i membri della famiglia dell'attentatore, a che le donne più a scopo punitivo che per lo svolgimento delle indagini. Comunque sia, di sicuro gli demoliranno la casa. In questo caso, ovviamente, non sarà facile farlo, in quanto nel pieno del campo profughi, che quindi è un contenitore, è una pentola a pressione, diciamo così. L'attacco di domenica nella città vecchia rappresenta un nuovo scatto di tensione, quindi a Gerusalemme Est, una tensione che in questi mesi non si è mai placata, anche a causa della minaccia di espulsione delle famiglie palestinesi dalle loro case del quartiere di Sheikh Jarrah, dove è nata poi la rivolta che poi ha portato fino allo scontro militare tra Hamas e Israele. La vicenda, come ci ricorda Michele Giorgio, potrebbe riesplodere presto, in quanto le famiglie palestinesi coinvolte hanno respinto a inizio mese, come abbiamo anche ricordato nelle precedenti trasmissioni, una soluzione di compromesso promossa dalla Corte Suprema israeliana, che hanno giudicato troppo favorevole alle rivendicazioni dei coloni, anche perché venivano quasi trattati come degli ospiti nella propria terra. Altrettanto esplosiva è la situazione ovviamente nel quartiere di Silwan, ai piedi della città vecchia, dove sono decine le famiglie palestinesi che rischiano di perdere la casa ancora a vantaggio dei coloni. A raccogliere l'attenzione però è sempre lo scontro Israele-Hamas. Dopo vi parleremo anche della colonizzazione con questa rubrica, chiamiamola così, cronache di apartheid. È importante sottolineare anche e dare voce soprattutto ai palestinesi in Italia e ai giovani palestinesi in particolare in Italia rispetto a quanto avvenuto in questi giorni, a quanto successo in particolare a Gerusalemme dopo l'attentato che poi è stata la miccia degli scontri che sono successi a Shufra e anche dello svilupparsi di questa propaganda che vede piuttosto che porre l'accento sulle condizioni materiali e del contesto in cui queste situazioni avvengono, pone l'accento invece sullo scontro sempre tra Israele e Hamas, molto uno scontro tutto propagandistico. Quindi, pertanto ci teniamo a leggere questo che chiamarlo comunicato è anche improprio perché è un post Facebook dei giovani palestinesi in Italia, però rappresenta comunque la voce dei palestinesi. Infatti, che afferma che siamo stanchi, indignati e arrabbiati. Da ieri sta circolando la notizia dell'attacco nella spianata delle moschee di Gerusalemme, in cui un palestinese, Fadi Abu Shukedeam, ha sparato e ucciso un soldato sionista e ne ha feriti altri tre. Abu Shukedeam è stato a sua volta ucciso dall'esercito e l'accesso ad Al-Quds è stato chiuso per ragioni di sicurezza. La vicenda qui in Italia sta occupando le prime pagine dei quotidiani mainstream e i maggiori notiziari. Come al solito, la stampa si è dimostrata clamorosamente pendente verso la parte dell'occupante, ignorando sia l'imparzialità che questa dovrebbe raffigurare per Costituzione, che una vasta serie di circostanze non indifferenti riguardanti l'accaduto e i fatti precedenti e immediatamente successivi ad esso. Fatti e circostanze che a questo punto noi, come palestinesi, ma come cittadini liberi che desiderano un'informazione trasparente e concreta, ci sentiamo di snocciolare a chi intende essere correttamente informato. Accadere ieri sotto i colpi di mitra non è stato un innocente cittadino dell'entità sionista qualunque, come ha prontamente segnalato ieri l'agenzia ANSA, ma un membro armato degli apparati di occupazione che pattugliano Gerusalemme e soffocano con la repressione gli oltre 400.000 palestinesi che da secoli la vivono. Non solo, si apprende che il soldato tale Eliaku Kaye è un colonia originale di Modiyyeh, una delle 230 colonie illegali, secondo le Nazioni Unite, costruite sulla terra dei nostri. E ancora, altro fatto di grande rilievo giornalisticamente parlando, è la repentina ritorsione delle forze di occupazione verso la famiglia dell'uomo. Video astutamente non ripresi nei nostri telegiornali mostrano infatti come nelle ore immediatamente successive all'attacco decine e decine di soldati hanno fatto irruzione nella casa della vittima, devastando l'appartamento, picchiando il fratello, la madre e arrestando la sorella e il figlio della vittima di soli 8 anni, Abdullah, portato via per l'interrogatorio. Un'azione di violenza inaudita che strizza l'occhio alle ronde squadriste di mussoliniana memoria. Di questa repressione fascista, la stampa ha fatto scena muta rispetto all'infanticidio avvenuto proprio a Gerusalemme solo 4 giorni fa, del sedicenne Omar Abu Saad. o della riconsegna, dopo oltre un mese, del corpo di Amagen Abu Sultan, 14 anni, ucciso a metà ottobre insieme a sua madre vicino a Betlemme. Anche di questo non una parola. Ecco quindi che vogliamo affermare con forza che fino a quando la nauseante narrativa dei media nostrani sarà questa, la nostra realtà tutta li considererà complici di crimini contro l'umanità, sionismo e fascismo. Il giornalismo, si dice, è il cane da guardia del potere, ma quando il potere è sionista, il giornalismo diventa cane da salotto. Massima importanza, cultura, identità, differenza, esige rispetto, zero tolleranza, la disoccupazione genera violenza, prudenza, intervento immediato in assenza, approccio sconsigliato, sonna da sud, azzuzzo, cresciuto, e quando ha già avuto bisogno qualcosa non l'ha già mai avuto, quello che tenga perché me l'ha già pigliata, e quello che ama manca con corona se le ha rubate, ha criata l'Occidente, industrializzata e mo' che ha avuto, avuto, avuto, ma non regala più niente, e voglio essere papà. Zero padane, zero italiana, casi ma tutto quanto si ma tutta Africa. Ogni lotto sta tranquillo perché a 12 meno grano, grano cresce. Riesce o non riesce, era grano, sempre grano è quello che esce, sì. Semine, semine cresce, semine, semine cresce. Un problema meno quando grano vidi e fornisce. O per lì il miglio cresce, sarà per un cantiere e costruisce. Ogni modo che in Padania una bella azienda nasce. Perché è venuto grano e cade in un cuore che abbasce. Roba africana, napolitana. Roba da sotto il mondo che va la rubata che manda patana. Roba africana. Europe for trust of people. Still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Europe, fortress of people. Still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Ecco canna che sabato sta una grande novità. Che sta grande novità si chiama Europa Unità. Non per orgoglio nazionale, non più rivalità. Sì, ma tutto quanto vuole una nuova identità. Riesce che hanno eliminato tutte le frontiere. Con una moneta solo spenaro, cazzo di paro. Fate che questa moneta te la devi faticare. A roba tiene certo tempo e sotto voglia di viaggiare. Europe, fortress of people. Still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Singolo cogli nazionali a capo d'ogni stata. Mi manno guardate sforzo, sempre rosso stato stata. Costante mezza viso, anche fascisti a polizia. Ecco poi la nuova Europa, la nuova democrazia. Europe for stress, Europe for stress. Confini blindati, denied access. Europe for stress, Europe for stress. Agenda fanno fame, poi facendo busi test. Europe for stress of people. Still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Europe for stress of people. Still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Occhio aperta mi rompo un estero, non rompo mai vista. Finale indecisi, ma lui è terrorista. Mi sorride, l'idea da fa vivere in tuo terrore. A te che da 10 anni mi struppiate e fate danno. Da freddo all'assessore passano, ma spirito professore. Mi sorride, l'idea da fa vivere in tuo terrore. Ma la bomba non la so fare, non so ancora sparare. Penso devo arrangiare finché posso accantare. A capolonna che sta carenne. Si caressa fa male con qua sotto curato. Ma che già medicina è lo stato si può. Non si può, non si non tiene, rinda sacco bronche no. L'anno chiuso rinda c'è la pure e la pelle. Sa cuore di una grida, nessuno ti pensa. Che fai se stiamo andiamo in coppia morti in ospedale? Che non è brigadista come Prospero Gallinare. Siamo da vuota, vuota, chiara, rara da vita. Ci ho c'ho passato, si mena per la parisa. Non c'è stanno che pensione, c'è sta manca fatica. E di conseguenza non c'è stanno a me la papà. Hanno fatto la finanziaria, c'avi ma sacrifica. Loro sanno a capottate e noi mo l'hanno aiutato. fascista fa mafioso, tu ad ancom, fa sottata se da mano fa guerra, braccetto una gunata, tria ad ancom, e la nara non è certo l'Europa che ci rende tutti uguali, ora ad ancom, e mazzate, che sta tutta quella che l'Europa non c'ha rata, ora ad ancom. E mazzata è che sta tutta quella galla Europa noi ciarata. Beh, Davide, probabilmente ha ragione Zulu quando dice che immazzata su tutte quelle che l'Europa noi ci ha data. Comunque, tornando a noi, riprendiamo con questa inedita rubrica che abbiamo voluto chiamare appunto Cronache di Apartheid, che purtroppo nella nostra trasmissione dà spazio a fin troppe notizie. Bene, iniziamo con quello che è accaduto, cioè con questa ragazzina che è stata ferita alla testa da un lancio di pietre di coloni israeliani. Appunto la notizia è stata diramata da alcune agenzie palestinesi, in particolare Ramallah Peak e Wafa, secondo le quali appunto questa ragazzina nella notte del 20, tra il 22 e il 23 novembre, quindi la notte scorsa, è stata colpita da alcune pietre che sono state scagliate da un'orda di coloni che appunto hanno lanciato queste pietre indirizzate all'auto in cui si trovava questa ragazzina a nord di Ramallah. Secondo le fonti locali, la quindicenne ha riportato ferite alla testa in seguito a questa pioggia di sassi e ovviamente è stata portata d'urgenza in ospedale. I coloni hanno anche lanciato pietre contro varie auto palestinesi vicino alla città di Turmus Aya, nei pressi di Ramallah, e ne hanno danneggiate diverse. Purtroppo questi episodi di vandalismo e di vero e proprio terrorismo, possiamo dire, da parte dei coloni sionisti contro i palestinesi e le loro proprietà sono all'ordine del giorno in tutta la Cisgiordania. Passando oltre, sempre a Gerusalemme, 154 coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa. Anche questo purtroppo un fatto che è tutt'altro che inedito. Ed infatti martedì mattina 154 coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme est occupata attraverso la porta di Al-Maghariba e hanno visitato i suoi cortili sotto la protezione della polizia. Durante i loro tour nel luogo sacro islamico, i coloni hanno ricevuto lezioni dai rabbini sul presunto monte del Tempio, alcuni di loro hanno recitato preghiere. Nel frattempo la polizia di occupazione israeliana ha imposto restrizioni di movimento ai fedeli musulmani nella città vecchia e sulle strade che portano alla moschea di Al-Aqsa. Testimoni hanno anche affermato che gli agenti di polizia hanno fermato diversi cittadini gerusalemitani, in particolare giovani, per controlli di sicurezza e li hanno perquisiti. La moschea di Al-Aqsa, come dicevamo appunto all'inizio di questa notizia, viene quotidianamente presa di mira dagli attacchi di questi coloni. Infatti episodi del genere si verificano purtroppo ogni qualvolta ci sono delle feste islamiche oppure quando i fedeli si radunano appunto per la preghiera. Solo che la polizia israeliana chiude la porta di Al-Maghariba, che viene utilizzata dagli ebrei per entrare nella moschea alle 10:30 dopo che i coloni hanno completato le loro visite mattutine al luogo sacro. Più tardi nel pomeriggio lo stesso cancello viene riaperto per le visite serali dei coloni. Durante la presenza dei coloni all'interno del complesso della moschea, ai fedeli musulmani vengono imposte restrizioni agli ingressi che conducono alla moschea e i loro documenti di identità vengono confiscati fino a quando non lasciano il luogo. Sempre per rimanere in tema di apartheid e anche di polizia etnica, purtroppo, riportiamo la notizia che Israele continua ad abbattere ripetutamente case palestinesi vicino a Gerusalemme Infatti la notizia che è di oggi riporta appunto che le autorità israeliane hanno demolito una casa di proprietà palestinese nell'area di Waji al-Hamous, nel villaggio di Sur Baer, a sud-est della città occupata di Gerusalemme. Un'unità delle forze israeliane e un bulldozer hanno fatto irruzione nell'area situata vicino al resort Murad di Betlemme, l'hanno chiusa e hanno demolito una casa di 3 piani di proprietà del residence locale, appunto, Ayman al-Eidit. 2 anni fa, sempre nella stessa città, le autorità israeliane demolirono 11 edifici, tra cui 77 appartamenti residenziali, la maggior parte dei quali costruiti in aree classificate come area C, che sono completamente sotto sovranità dell'autorità palestinese. E appunto proprio rispetto a quello che dicevamo prima, ora diamo delle notizie diciamo più particolareggiate. Infatti, come viene riportato sul sito Infopal da questo articolo comparso ieri, gli attacchi dei coloni contro i palestinesi sono aumentati del 150% rispetto all'anno scorso. Dall'inizio dell'anno le aggressioni fisiche, infatti, compiute in Cisgiordania dai coloni sono state 250 rispetto alle 100 del 2019, con un aumento del 150%, secondo dati visionati in una riunione sulla sicurezza israeliana tenutasi giovedì e pubblicati venerdì dall'analista militare del quotidiano Haaretz. Alla riunione riguardante la sicurezza israeliana hanno partecipato il ministro della difesa Benny Gantz, il capo di stato maggiore dell'IDF e il capo del servizio di sicurezza dello Shin Bet, il capo della polizia e altri funzionari di sicurezza. E le immagini dalla Cisgiordania mostrano che i coloni hanno usato le armi dei soldati dell'occupazione in una serie di attacchi che gli stessi soldati in molti casi sono intervenuti per fermare le violenze dei coloni. Secondo Haaretz, infatti, Cavi ha impartito chiari ordini ai soldati di non farsi da parte durante questi attacchi. Sempre secondo Haaretz, gran parte delle aggressioni avvenute durante la raccolta delle olive vengono dai coloni che vivono in insediamenti illegali, dai quali attaccano i residenti dei villaggi vicini. Inoltre, dall'inizio dell'anno sono stati registrati 60 scontri tra coloni e forze di sicurezza israeliane, rispetto ai 50 del 2019, e dall'inizio dell'anno sono stati registrati 135 attacchi da parte di coloni che lanciano pietre contro i palestinesi. Harel ha citato un importante, che sarebbe l'analista militare del giornale Haaretz, ha citato un'importante fonte della sicurezza israeliana dicendo che gli autori degli attacchi non sono bambini che si divertono, e ha continuato: dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, in alcuni casi si tratta semplicemente di terrorismo ebraico. Non escludo la possibilità che assisteremo a un altro attacco con esito mortale, come l'uccisione della famiglia Dawood Bash a Douma nel 2015. Questi fatti sono dannosi anche per la reputazione dello Stato all'estero. Non c'è incontro con ambasciatori stranieri in cui non si parli degli attacchi dei coloni contro i palestinesi. In questo articolo appunto vediamo come la preoccupazione degli alti dirigenti sionisti sia più improntata a difendere la reputazione del cosiddetto Stato ebraico di Israele, piuttosto che quella effettivamente, come potrebbe apparire da alcuni stralci di questo articolo, di tutelare l'incolumità dei palestinesi, che al contrario sono oggetto dei coloni che nella maggior parte dei casi non vengono nemmeno processati, rimangono impuniti, o comunque, lo ricordiamo, c'è un altro livello di apartheid, perché anche qualora questi coloni vengono assicurati assicurati tra virgolette alla giustizia, in ogni caso vivono un diverso trattamento rispetto ai palestinesi, che al contrario vengono processati da corti militari, mentre invece i coloni israeliani vengono processati da corti civili e sono anche soggetti a delle pene diverse. Quindi c'è un ulteriore livello di apartheid in questo. Continuando con la lettura di questo articolo, secondo B'Tselem, che è un'importante ONG israeliana proprio per i diritti umani e contro l'occupazione, l'esercito israeliano evita accuratamente di scontrarsi con i coloni, anche se da un punto di vista legale i soldati dell'occupazione ovviamente hanno il potere di arrestarli e detenerli. L'esercito di occupazione preferisce evidentemente espellere i palestinesi dai loro terreni agricoli o dai pascoli piuttosto che affrontare i coloni. Durante gli scontri, che inizialmente sono sempre causati dagli attacchi dei coloni, i soldati dell'occupazione dichiarano l'area interessata una zona militare chiusa, applicata solo alle aree dove risiedono i palestinesi, oppure i soldati disperdono questi ultimi usando lacrimogeni, granate assordanti, proiettili di metallo ricoperti di gomma e persino proiettili senza gomma. Secondo un rapporto di B'Tselem, a volte i soldati stessi prendono parte agli attacchi dei coloni contro i palestinesi o stanno a guardare senza fare niente per impedire o fermare le aggressioni. Que venimos a defender la revolución cubana, que venimos a defender la revolución cubana, porque es hermosa mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas, con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Dicen los americanos que Fidel es comunista, dicen los americanos que Fidel es comunista, mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos, mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Bene, Michele, torniamo riprendendo un po' quello che andando un po' in Inghilterra, un po' nel Regno Unito, che sono successe un po' di cose. Innanzitutto, la FIFA ha sanzionato l'associazione calcio scozzese per il tifo dei suoi tifosi contro l'entità sionista. Infatti il supporto scozzese per la Palestina alla partita contro Israele non è passato inosservato. Il 9 ottobre scorso si è giocata la partita tra Scozia ed Israele, valevole per la qualificazione ai mondiali di calcio in Qatar del 2022. Ebbene, un gruppo di tifosi scozzesi ha fischiato per tutta la durata dell'inno nazionale israeliano, sventolando bandiere palestinesi ed esposto cartelloni dove veniva espresso il supporto alla causa palestinese. Ebbene, la FIFA giovedì 11 novembre ha deciso di sanzionare l'associazione calcio scozzese con una multa di 10.000 franchi svizzeri, valevoli più o meno 9.500 euro. Nel comunicato ufficiale della FIFA la stessa ha precisato che l'ammenda è dovuta a disturbo durante l'esecuzione dell'inno nazionale, ma questo è carino, è uso di oggetti, in questo caso bandiere, per trasmettere un messaggio non appropriato per l'evento sportivo. Comunque la partita è terminata 3-2 per la nazionale scozzese e la nazionale israeliana non accederà alla fase finale dei mondiali di calcio in programma il prossimo anno, quindi se li vedrà da casa, che non è sua, dalla casa occupata di altri. Comunque, proprio per rimanere in tema di Regno Unito, proprio nel Regno Unito, su Invicta Palestina è uscito questo interessante articolo tradotto di Mohamed Nazari, che è Ismail, che è attualmente il presidente di BDS Malaysia ed è anche professore presso la Facoltà di Economia e Contabilità, l'Università della Malesia di Kuala Lumpur. Vi leggo un estratto dell'articolo che potete trovare su Invicta Palestina uscito quest'oggi e dove appunto il professore mette in evidenza come che la mossa di vietare Hamas fa sì che il gruppo possa diventare solo più popolare anche tra non solo in Gran Bretagna ma a livello internazionale. Infatti, come afferma il professore, secondo quanto riferito, il governo britannico appunto sta pianificando di introdurre questa legge che vieterà Hamas e la classificherà come un'organizzazione terroristica. Il suo ministro degli interni, Patel, ha in programma di premere per il divieto la prossima settimana in Parlamento, sostenendo che non è possibile distinguere tra le ali politiche e militari del movimento islamico. Ha anche chiamato Hamas fondamentalmente rabbiosamente antisemita e quindi sostiene che vietando il gruppo la comunità ebraica sarà più protetta. Secondo gli esperti legali questa mossa potrebbe comportare la condanna a 14 anni di carcere per chiunque esprima sostegno ad Hamas. La domanda da porsi che pone il professore importante è: ma la mossa è giustificata? Hamas è davvero da considerare un'organizzazione terroristica? La risposta ovviamente dipende da come si intende la storia dell'entità sionista di Israele. Se si vede Israele come uno stato che è stato fondato con un processo democratico in base al quale la maggior parte delle persone in quel territorio ha deciso di formarlo, allora qualsiasi mossa di qualsiasi partito per contestare la sua esistenza sarebbe ingiustificata. E se la si sfidasse con la lotta armata, allora quelle organizzazioni coinvolte dovrebbero essere considerate organizzazioni terroristiche. Il problema qui è che non siamo in questo caso. Come sostengono infatti alcuni storici israeliani, questa versione, la prima ipotesi, è totalmente infondata. Infatti, secondo quanto detto anche dalla Mbappé, che abbiamo avuto modo di incontrare anche qui a Salerno, grazie a Femminile Palestinese, infatti lui ci insegna che Israele è semplicemente uno stato colonialista, un progetto coloniale dei sionisti europei. Quello che accade fu che verso la fine del XIX secolo ebrei europei, che non sopportavano più l'antisemitismo rivolto verso di loro, decisero di fondare un nuovo stato in Palestina che doveva essere esclusivamente ebraico. E quella che fu poi descritta dagli Mbappé, ma anche dai documenti ufficiali dell'esercito israeliano, la pulizia etnica della Palestina. Per questo non si può configurare la resistenza armata palestinese come terroristica, perché il peccato originale di fondo è appunto l'occupazione, la colonizzazione della Palestina. Come sottolinea il professore, infatti Hamas è semplicemente uno dei tanti gruppi palestinesi che rifiutano di essere soggiogati da una potenza coloniale straniera impregnata in un progetto coloniale. Inoltre, secondo i diritti internazionali, le popolazioni sotto occupazione straniera hanno il diritto di resistere, e questo include il diritto di impegnarsi nella resistenza armata, ed esattamente ciò che Hamas fa verso, ha scelto di fare e fa verso Israele. Dal punto di vista di qui sopra, Hamas e altre organizzazioni impegnate nella lotta per liberare la loro terra meritano di essere chiamati combattenti per la libertà, che poi era l'etichetta data dalla comunità internazionale all'Africa National Congress, come ci ricorda, quando si impegnava in azione di resistenza armata contro le politiche ingiuste del governo sudafricano dell'apartheid. E nei confronti però dell'apartheid israeliana questo metodo non viene utilizzato. La domanda che pone compagno è: perché Patel ed altri sionisti e i loro sostenitori sono così irremovibili nell'etichettare Hamas come un'organizzazione terroristica? E la risposta che si dà è che probabilmente la realizzazione che molti settori della società africana sono sempre più favorevoli alla causa palestinese, grazie sempre a una maggiore consapevolezza su ciò che è veramente accaduto e sta accadendo in Palestina e sulle gravi colpe, tra virgolette, del governo britannico, di Lord Belfort, questo sostegno sta diventando sempre più forte, di giorno in giorno, e questo sta preoccupando molto i sionisti e i loro sostenitori in patria, e quindi sta cercando di intimidire i gruppi e gli individui filopalestinesi. L'esito di questa mossa, se approvata ovviamente dal Parlamento britannico, secondo il professore, dipenderà in ultima analisi da come reagiranno i gruppi e le persone filopalestinesi. Se davvero saranno intimiditi, allora le voci a sostegno della causa della giustizia in Palestina saranno ridotte e probabilmente completamente messe a tacere. Tuttavia, sulla base della storia della lotta per l'indipendenza in altre parti del mondo, i tentativi di mettere a tacere, intimidire i sostenitori della causa della libertà e della giustizia molto probabilmente li esploreranno solo ad essere più espliciti e motivati. In altre parole, è probabile che la mossa per vietare Hamas fa sì che il gruppo diventi più popolare, non solo tra i palestinesi, ma anche tra i loro sostenitori in Gran Bretagna e a livello internazionale. Anche l'attrito sembra scomparire, il corpo perde tutto il suo peso, lo perde galleggiando sopra il mare. Stranita in superficie, con le sue possibilità infinite, dove il sommerso scompare, annulla l'ingombro della sua presenza. Mi piacerà guardarti quando la spuma bianca si alzerà dal mare ad annunciare la tempesta, ed il sommerso come un palombare rosso emergerà in un mare rosso di vita. Sembra più azzurro ed anche il tempo sembra scomparire, il corpo perde tutto il suo peso, lo perde galleggiando sopra il mare. Strana vita in superficie, con le sue possibilità infinite, dove il sommerso scompare, annulla l'ingombro della sua presenza. Mi piacerà guardarti quando la spuma bianca si alzerà dal mare ad annunciare la tempesta, ed il sommerso come come un palombaro rosso. accadimenti. Ho avuto questa mattina una telefonata del ministro degli interni. Bene, ritorniamo in studio per invitarvi a leggere questo interessante articolo che ho anche abbastanza lungo, sempre molto attento, da parte di Antonio Mazzeo, che è comparso su Pagine Esteri, che ci parla appunto della militarizzazione, essendo lui un esperto del Meridione, in particolare della Sicilia, dove non solo Sigonella, ma l'intera regione è militarizzata, come recita appunto l'articolo di Mazzeo. Infatti, che parte proprio dal uno degli estratti dell'Air Mobility Master Plan, il piano strategico per la mobilità aerea delle forze statunitensi nel Mediterraneo, che afferma che il rifornimento in volo serve ad abilitare e moltiplicare gli effetti della potenza aerea in tutti i livelli bellici. Le capacità di rifornimento delle forze di mobilità aerea statunitensi rendono possibili le operazioni di ponte aereo dai teatri operativi e sono necessarie per supportare i grandi schieramenti, l'assistenza umanitaria, lo strike global e gli aviolanci a grande raggio dei paracadutisti e i loro equipaggiamenti, senza la necessità di affidarsi a basi intermedie interne al teatro d'azione. Il rifornimento aereo assicura ai bombardieri equipaggiati con armi nucleari la capacità di portare il loro carico in ogni parte del mondo e di trovare riparo in una base adeguata e sicura. Le operazioni di guerra richiedono il rifornimento aereo per distendere la forza e la resistenza, così come il raggio operativo di tutti i veicoli. Questo era il 2009, dopo 8 anni di guerra globale al terrorismo e alla vigilia dell'offensiva in Libia contro il regime di Muammar Gheddafi, il comando delle forze armate USA pubblicava appunto l'Air Mobility Master Plan, che il piano appunto strategico per la mobilità aerea, che diventava l'elemento chiave per consentire alle forze aeree di potenziare la capacità di proiezione, penetrazione e distruzione in tutto il pianeta. Beh, direte voi, cosa c'entra questo con Sigonella? È proprio Sigonella che ha una funzione strategica dal punto di vista logistico e del rifornimento aereo. Infatti l'hub per i rifornimenti aerei c'è proprio a Sigonella, si sta sviluppando un hub per i rifornimenti aerei che si somma anche ad altri progetti in realizzazione in questi mesi. Infatti nella base USA NATO è un proliferare di cantieri per la Main Operating Base del sistema di sorveglianza terrestre AGS, l'Alliance Group Surveillance dell'Alleanza Atlantica, si stanno costruendo 14 nuovi edifici che ospiteranno centrali radio, uffici, caserme, hangar e officine di manutenzione. Il sistema AGS è stato progettato per assicurare all'Alleanza una rilevante capacità di intelligence, sorveglianza e riconoscimento. A Sigonella è costituito da stazioni di terra fisse mobili e trasportabili ed entro il 2024 i droni AGS potranno effettuare missioni di volo fino a 100 ore a settimana e la copertura di un'ampia area del pianeta, dall'oceano Atlantico fino al Mar Nero e la Crimea, dal Mar del Nord al Baltico fino al Sudafrica. Per questo programma a Sigonella è già presente uno staff di 375 tra militari e civili di 24 paesi, ma il loro numero crescerà sino a 600 quando il sistema sarà pienamente operativo. Un aspetto meno noto ovviamente di tutta questa storia, ma molto inquietante come sottolinea Mazzeo, riguarda il ruolo appunto assunto da Sigonella nei piani di supremazia nucleare degli Stati Uniti d'America. In quanto, dopo aver fatto nel corso degli anni Ottanta da base di arrivo, supporto e manutenzione dei missili Crois con testata atomica installati nel vicino aeroporto di Comiso a Ragusa, nel 2018 è entrata in funzione a Sigonella la Joint Tactical Ground Station, la stazione di ricezione e trasmissione satellitare del sistema di pronto allarme per l'identificazione dei lanci di missili balistici con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali. Quindi, e questo è il principale sistema di USA Army per integrare ed espandere le capacità di allarme, secondo quanto detto dalla stessa compagnia. Quindi vi invitiamo comunque a leggere l'articolo di Mazzeo, che offre importanti spunti, ovviamente sempre molto preciso nei suoi riferimenti. E soprattutto un grande compagno sempre a supporto dei movimenti contro la guerra. Quindi vi invitiamo a leggere questo interessante articolo, molto lungo ma molto dettagliato, sempre molto preciso. Beh, Davide, direi che con questo articolo abbiamo terminato la nostra puntata, quindi ci diamo appuntamento, alla settimana prossima. Ricordiamo a tutte e a tutti che potete riascoltare questa puntata in replica domani mattina alle 11 oppure domenica, e a breve sarà disponibile anche il podcast della puntata sul nostro canale Telegram, che è appunto Radio Asilo. Vi auguriamo una buona serata a tutti e a tutti. Buona serata, Buonasera. Davide. Ciao.